Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se queste notizie corrispondessero alla verità, se qualcuno veramente avesse intenzione di, devo dirlo, purtroppo, di pagare delle cambiali e far uscire Rina dal carcere, allora questa sarebbe la seconda volta che uccidono Paolo Borsellino. E a dirlo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, a Sky TG24, a proposito di questa possibilità di scarcerazione o di messa in domiciliare, insomma, di Totò Riina, il sanguinario capo di Cosa Nostra. Sapete che infiamma la polemica in questi giorni dopo questa sentenza della Cassazione. Ne parleremo stasera, ne parleremo con un magistrato del Tribunale di Milano. Molti sono stati i pareri, per lo più tutti contro, diciamo, una possibile attenuazione del regime carcerario di Totò Riina, che sapete è gravemente malato di tumore, 86 anni. Poi gli altri argomenti, naturalmente ci aggiorneremo sulle indagini che riguardano l'attacco di Londra, e poi c'è un nuovo allarme terrorismo a Parigi, potrebbe essere il solito squilibrato psicopatico, però diciamo che qualcuno che aggredisce dei poliziotti con un martello vicino alla cattedrale di Notre Dame, insomma, sicuramente fa tornare la paura. Molti argomenti anche questa sera qui Effetto Notte, quindi vi ricordo che per intervenire, per interagire con il programma, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Quindi prima di cominciare a svolgere, ad approfondire i vari temi con gli ospiti, come sempre io vi racconto la giornata. Parigi, aggressione contro due poliziotti vicino alla cattedrale di Notre Dame. L'uomo di origini algerine, armato di martello, urla: sono dell'ISIS. L'attacco terroristico a Londra veniva dall'Italia. Il terzo killer del London Bridge, italo-marocchino, era stato fermato a Bologna nel 2016. La questione sicurezza irrompe nella campagna elettorale britannica. La legge elettorale alla Camera, aula semideserta per la discussione generale. L'ex presidente Napolitano attacca: è un patto extracostituzionale di quattro leader che pensano solo alle loro convenienze. La possibile scarcerazione di Totò Riina, continua la polemica dopo la sentenza di ieri della Cassazione, indignati familiari delle vittime del capo di Cosa Nostra. Siria, milizie curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti sono entrate a Raqqa, roccaforte dell'ISIS nel nord del paese, per riconquistare la città. All'Italia parte l'esame delle proposte per la compagnia aerea 32 in corsa. Il ministro Delrio si dice fiducioso. È morto a Londra Khashoggi, è stato il più ricco del mondo. Il miliardario saudita aveva 82 anni. E partiamo quindi da questo nuovo allarme terrorismo, questa volta riguarda Parigi, in realtà purtroppo non è la prima. Un algerino di 40 anni, armato con un martello e due coltelli, ha aggredito un agente vicino alla cattedrale di Notre Dame, lo ha ferito in modo non grave alla testa, ma è stato poi colpito alle gambe dagli spari esplosi da altri poliziotti. Panico fra i turisti, 900 per un po' di tempo sono rimasti bloccati dentro la cattedrale. L'uomo si sarebbe dichiarato soldato dell'ISIS e indaga l'antiterrorismo. E tra poco ci colleghiamo con Parigi per ulteriori dettagli. E da Parigi a Londra aveva la nazionalità italiana Youssef Zaghba, identificato come il terzo terrorista dell'attacco di Londra. L'uomo, madre italiana e padre marocchino, viveva nell'East London come gli altri due terroristi. A marzo del 2016 era stato fermato all'aeroporto di Bologna con un biglietto per Istanbul. Le autorità italiane condivisero queste informazioni su Zaghba con l'intelligence internazionale e la madre anche collaborò nelle indagini. Intanto la prima ministra britannica May chiede una revisione dell'operato della polizia e dei servizi segreti. La polizia rafforza la sicurezza ai seggi elettorali, dato che giovedì tra due giorni si vota in Gran Bretagna, e il tema sicurezza infiamma appunto la campagna elettorale britannica a soli due giorni dal voto per le parlamentari. Il tema sicurezza prende il sopravvento nelle elezioni britanniche, con il sindaco di Londra e il laburista Sadiq Khan che passa all'attacco. We have had to close police stations, sell police buildings. I futuri tagli alla Metropolitan Police sono insostenibili e renderebbero difficile sventare altri attacchi terroristici, ha denunciato Khan snocciolando le cifre. Se i conservatori vincono le elezioni si rischiano sforbiciate per 400 milioni di sterline, che potrebbero portare all'uscita di quasi 13.000 poliziotti. Tagli pesanti, soprattutto in tempi di minaccia terroristica. Le parole di Khan hanno attraversato usato la campagna elettorale come lama in un dibattito reso già bollente dagli ultimi due episodi di terrorismo. Immediata la replica del ministro degli esteri Boris Johnson, secondo cui i numeri della polizia restano alti e i cambi di assegnazione effettuati in passato hanno portato a meno funzionari alla scrivania e più bobbies per le strade. Il problema, come osservano diversi commentatori, è che nel suo periodo da ministro dell'interno l'attuale premier e candidata conservatrice Theresa May ha tagliato 20.000 poliziotti, nonostante la ferma opposizione dei sindacati di categoria. Un boomerang che le si sta ritorcendo contro in questi giorni infuocati. La premier uscente ha reagito dicendo di attendersi una revisione dell'operato di polizia e servizi segreti dopo le polemiche sulle falle dell'antiterrorismo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo torniamo su Londra per sapere quali sono gli ultimi aggiornamenti nelle indagini. Intanto occupiamoci di politica italiana, dove la protagonista è ancora la legge elettorale. In un'aula semivuota a Montecitorio, appena 15 deputati presenti, inizia la tanto famigerata discussione sulla legge elettorale. Il modello è il tedesco all'italiana, il fianellum un proporzionale con collegi uninominali, sbarramento al 5%. Il patto tra Movimento 5 Stelle, PD, Forza Italia e Lega sembra però messo in discussione dalla critica di Beppe Grillo, che parla di legge in cui non si capisce niente. Secondo il relatore Emanuele Fiano del PD, non è così. È una legge proporzionale per la quale si viene eletti in Parlamento con due modalità, o arrivando primi nei collegi uninominali oppure su listini circoscrizionali, ma è una legge a base proporzionale. Ma la vera discussione è sui tempi delle elezioni. Il segretario PD Matteo Renzi frena. Nessuno di noi qui ha fretta di andare alle elezioni. E Angelino Alfano attacca. La legge elettorale è incostituzionale, mentre sui tempi del voto risponde così. Le elezioni anticipate non le porta la cicogna, le elezioni anticipate le porta il Partito Democratico. Un'ipotesi, quella delle urne anticipate, non gradita al Quirinale perché c'è di mezzo la legge di bilancio e nemmeno all'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Giorgio Napolitano che parla di un accordo tra quattro leader, dice, solo per le loro convenienze. Poi ne parliamo nel corso di Effetto Notte. Adesso invece spostiamoci sulla possibile scarcerazione di Totò Riina, che fa discutere ancora la pronuncia della Cassazione sul capo di Cosa Nostra. Per la Suprema Corte il boss dei boss, gravemente malato, ha il diritto ad una morte dignitosa e per questo dovrà essere riesaminata la richiesta di arresti domiciliari o di un differimento della pena avanzata dai suoi legali. Farlo uscire sarebbe una resa dello Stato. Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, commenta così l'ipotesi di una scarcerazione di Totò Riina, il boss dei boss condannato a 17 ergastoli. È ancora il capo di Cosa Nostra e per questo deve restare al 41 bis, afferma anche il procuratore nazionale antimafia Roberti, il quale si dice sicuro che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, chiamato di nuovo a pronunciarsi sul caso, confermerà il carcere duro vista la sua altissima pericolosità sociale. Il pubblico ministero di Matteo vive blindato proprio a causa delle minacce che Riina ha lanciato dal carcere, ricorda Roberti. A dirsi favorevoli ad una scarcerazione del padrino di Corleone perché è malato e ha diritto a una morte dignitosa sono invece i radicali, ma anche il governatore della Lombardia Maroni. Non sono d'accordo con chi dice che deve morire in prigione. C'è un livello di umanità che deve valere anche per lui, spiega l'ex ministro dell'Interno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prosegue l'inchiesta, di questo poi parleremo, anche per voi le vostre opinioni continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dicevo, prosegue l'inchiesta sulla calca che ha provocato oltre un migliaio di feriti a Torino sabato sera. Intanto la sindaca Chiara Appendino afferma: come amministrazione siamo pronti ad assumerci le eventuali responsabilità che dovessero emergere dall'inchiesta della magistratura. E ora all'estero, milizie curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti sono entrate a Raqqa, roccaforte dell'ISIS nel nord della Siria, in azione 5.000 miliziani. Un raid della coalizione centra una scuola in cui avevano trovato rifugio famiglie di sfollate, numerose le vittime civili. Intanto a Mosul in Iraq l'ONU denuncia una nuova strage di 163 persone tra uomini, donne e bambini che cercavano di fuggire massacrati dall'ISIS il 1 giugno. Nel frattempo il presidente americano Donald Trump loda l'isolamento del Qatar deciso dagli stati del Golfo e dice è l'inizio della fine del terrorismo. Torniamo in Italia, un portavoce di Ryanair interpellato sulla gara all'Italia ha detto abbiamo presentato una manifestazione di interesse. C'è anche la busta di Ryanair fra le 32 manifestazioni di interesse arrivate sul tavolo dei commissari all'Italia. Nessuna intenzione ad acquistare la compagnia, spiegano gli irlandesi della low cost, ma solo a offrire un servizio di fideraggio per il lungo raggio di Alitalia, ossia voli di collegamento fra i diversi aeroporti periferici e un hub centrale. Gli asset fanno gola anche a Lufthansa, che, dice l'amministratore delegato Spohr, guarda a flotta e slot perché l'Italia è un mercato molto importante per i tedeschi. I commissari sono al lavoro. Abbiamo iniziato ad aprire questa mattina le buste dal notaio, dice Stefano Paleari. Stiamo valutando e classificando le manifestazioni di interesse. In queste ore, insomma, si sta verificando se chi è interessato ad Alitalia ha solidi requisiti di sostenibilità, una prima scrematura che potrebbe ridurre il numero delle manifestazioni di interesse. Un risultato oltre le aspettative, dice il presidente dell'ANAC, Vito Riggio. Chiuso l'esame preliminare delle manifestazioni di interesse, si aprirà poi la data room e per 4 o 6 settimane chi è interessato ad Alitalia potrà spulciare carte e dati, ma non saranno fornite loro informazioni riservate per non avvantaggiare i concorrenti di Alitalia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È morto a Londra Khashoggi, il miliardario saudita Adnan Khashoggi aveva 82 anni, era malato da tempo, nato alla Mecca, il padre era medico della famiglia reale saudita. Khashoggi tra gli anni 70 e 80 era considerato l'uomo più ricco del mondo, la sua fortuna ebbe un crollo con guai giudiziari legali legati al riciclaggio e traffico d'armi. Era zio di Dodi Al-Fayed, vi ricordate, morto 20 anni fa a Parigi insieme a Lady Diana. L'ultima moglie, l'italiana Lamia, annuncia il funerale a Medina, dice farò di tutto perché nulla impedisca a realizzare delle sue ultime volontà. Per lo sport, si è spento a Firenze all'età di 83 anni per un improvviso malore Giuliano Sarti, indimenticabile portiere di Fiorentina, Inter, Juventus e della nazionale italiana. Nato a Castello d'Argile, Bologna, il 2 ottobre 1933, è considerato tra i migliori portieri italiani di sempre, il primo e unico portiere italiano ad avere disputato 4 finali di Coppa dei Campioni, la prima persa con la maglia dei Viola. In nazionale ha collezionato 8 presenze. E poi alleggeriamo anche diciamo con qualche nascita, qualcosa di positivo. Nati 2 gemelli di Amal e George Clooney. Ha partorito oggi Amal 2 gemelli, si chiamano Ella e Alexander. Il portavoce dell'attore George Clooney ha reso noto la notizia della nascita stamattina e ha precisato: entrambi sono felici, sani e stanno bene. Poi ha aggiunto: George è tranquillo e dovrebbe riprendersi in pochi giorni. Insomma, se avesse partorito lui. Bene. Con un po' di gossip, un po' di leggerezza, direi che abbiamo chiuso il riassunto della giornata. Voi intanto scrivete i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Tra poco c'è la viabilità. Intanto ne leggo già qualcuno con Walter che dice: più che il rilascio di Totò Riina dovrebbero arrestare i mafiosi che continuano a lucrare sul traffico dei migranti. Qualcuno oggi lo hanno arrestato, ma perché anche trasportava dei jihadisti dalla Tunisia, sembra che volesse importare più che altro dei jihadisti. E poi Franco che scrive: ma Falcone, Borsellino e la scorta hanno avuto una morte dignitosa? Non si tratta, dice, di vendetta, ma di senso di giustizia verso i mafiosi che si sentono intoccabili. A tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora, le notizie le più importanti ve le ho ricordate, tra poco, se non avete acceso puntualmente alle 21, ma ricordatevi, dalle 21 alle 22, precisi, puntuali, per essere costantemente aggiornati quando ormai la giornata è finita. Se avete perso dei pezzi, qui li potete ritrovare in sintesi. E poi approfondimenti con gli ospiti, a cominciare tra pochissimo. Ci collegheremo con Parigi per capire che cosa effettivamente è successo oggi. Si tratta di un sventato attacco terroristico oppure del solito squilibrato, che insomma ormai non fa neanche più molta differenza. Intanto vi dicevo, vi ricordo i titoli principali. Parigi, appunto, aggressione contro due poliziotti vicino alla cattedrale di Notre Dame. L'uomo di origine algerina armato di martello urla sono dell'ISIS. Attacco terroristico a Londra, veniva dall'Italia il terzo killer del London Bridge, un italo-marocchino, era stato fermato a Bologna nel 2016 e la questione sicurezza irrompe nella campagna elettorale britannica. E poi la legge elettorale alla Camera, aula semideserta. Oggi per la discussione generale l'ex presidente Napolitano attacca e dice un patto extra costituzionale di 4 leader che pensano pensano solo alle loro convenienze. La possibile scarcerazione di Totorina, che tanto sta facendo discutere, poi in Siria milizie curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti cercano di riconquistare Raqqa, roccaforte dell'ISIS appunto in Siria. Per quanto riguarda l'Italia, a parte l'esame delle proposte per la compagnia aerea, ci sarebbero 32 in corsa. E poi è morto a Londra Khashoggi, è stato il più ricco del mondo, il miliardario saudita aveva 82 anni. E quindi a soli 3 giorni dal terribile attacco terroristico di Londra torna la paura a Parigi. E arriva dalla capitale francese infatti la notizia di un poliziotto aggredito, di più poliziotti aggrediti da un uomo di 40 anni di origini algerine che aveva in mano un martello e dei coltelli. È successo vicino alla cattedrale di Notre Dame, il quartiere è stato isolato per un po' e per un po' di tempo ben 900 persone sono rimaste chiuse, bloccate nella cattedrale. Secondo quanto si è appreso da testimoni oculari, l'uomo avrebbe tentato di aggredire con un martello diversi agenti di polizia e poi sarebbe stato neutralizzato da altri poliziotti che gli hanno sparato e l'hanno ferito. È stato portato via in ambulanza e avrebbe urlato: l'ho fatto per la Siria, sono un soldato dell'ISIS. Ma ci facciamo raccontare meglio da Marco Mussanè. Ciao Marco, che è corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Buonasera a voi. Ma sì, c'è stato l'ennesimo attacco ai poliziotti di un apparentemente, non so appunto come definirlo, un matto, uno squilibrato, ormai il confine tra chi è veramente, come dire, un soldato del califfato, come amano definirsi, e chi invece è soprattutto uno squilibrato che trova in questa sigla una possibilità di espressione sempre molto vago. In ogni caso le cose sono andate così. Oggi pomeriggio verso le 16:20 sul sagrato di Notre Dame, che è uno dei luoghi simbolici e più turistici della capitale francese, in mezzo alla folla in attesa di entrare nella cattedrale, c'è appunto un uomo, un quarantenne algerino, che ha aggredito con un martello una pattuglia di poliziotti che controllano l'ingresso della cattedrale, ne ha ferito lievemente uno al collo e poi è stato ferito con 2 colpi di d'arma da fuoco da un altro poliziotto della pattuglia. Nello zaino sono stati trovati anche 2 coltelli da cucina. Durante l'aggressione, a secondo appunto i testimoni, avrebbe urlato per la Siria. Una volta a terra, quando è stato poi soccorso, ha detto di essere un soldato del califfato, un soldato dello Stato Islamico. È l'ennesimo episodio, diciamo, di aggressioni con armi rudimentali e in modo assolutamente, come dire, casuale di questo genere. È il quarto in Francia negli ultimi mesi, una situazione alla quale, come dire, apparentemente ci si sta un pochino abituando e di fronte alla quale è praticamente impossibile difendersi. L'algerino di oggi non era schedato, non era conosciuto ai servizi segreti, era un signor nessuno. Ormai questa è francamente la situazione in cui si vive. È chiaro che ci sono state scene di panico sul sagrato, le persone che sono fuggite, il migliaio di persone sono state appunto tenute per 3 ore all'interno della basilica, controllate anch'esse una per una per essere sicuri che non ci fossero complici, che non ci fossero altri potenziali aggressori. Ecco, certo, si tratta di un atto di terrorismo, in questo senso è stata aperta un'inchiesta alla procura. Certo, un tipo di terrorismo ben diverso da quello a cui eravamo abituati in passato, con azioni più strutturate, più organizzate, anche oggettivamente più sanguinose. Qui siamo in presenza di probabilmente persone psicologicamente molto fragili che sono, diciamo, a disposizione in qualche modo di una sigla che è disposta a coprire qualsiasi tipo di atto di violenza. Un demente solitario, dice lupi solitari. Più demente solitario. Più che un lupo solitario si direi uno squilibrato solitario. Grazie Marco Mussanè. Ciao Marco. Grazie da Parigi. Ciao. E da Parigi a Londra ritorniamo, perché appunto di questo stavamo parlando in questi giorni, nelle ultime ore, l'attacco terroristico del London Bridge di sabato sera. Il terzo killer, questa è la novità di oggi, il terzo killer identificato è un italo marocchino Youssef Zagba si chiama, ha la madre italiana e il padre marocchino, viveva nell'East London come gli altri due terroristi di questo commando che ha agito sabato sera a Londra. A marzo del 2016 questo italo-marocchino era stato fermato all'aeroporto di Bologna con un biglietto di sola andata per Istanbul, cosa che aveva un po' fatto insospettire chi lo aveva fermato, un piccolo zaino, un passaporto. Le autorità italiane condivisero poi le informazioni su Zagba con l'intelligence internazionale e anche la madre pare collaborò a queste indagini. C'è quindi Raffaella Calandra. Ciao Raffaella, ti saluto. Ciao Roberto, a te e ai nostri ascoltatori. Quindi c'è anche una pista italiana relativamente all'attacco di Londra, no? E anche un nuovo elemento che se fa emergere nuove falle nell'intelligence britannica, visto che era stato segnalato nel 2016, si era detto insomma. Sì, direi è tutto di nuovo un déjà vu. Ancora una volta c'è un filo conduttore che dagli attentati in Europa porta in Italia, anche se stavolta in modo più strutturato che in passato, e ancora una volta c'è una segnalazione, una falla appunto nelle intelligence europee, in questo caso la celeberrima MI5 anglosassone, a cui l'antiterrorismo italiano aveva segnalato appunto Youssef Zagba come possibile sospetto proprio per il suo comportamento e proprio per due elementi: quello che lui aveva detto all'aeroporto di Bologna quando era stato fermato dagli operatori, aveva detto voglio fare il terrorista, salvo poi appunto lui stesso correggersi, e per quello che era stato trovato nel suo smartphone, ossia i classici segnali di radicalizzazione, quindi video di propaganda dell'ISIS e sermoni religiosi. L'accusa di terrorismo internazionale a suo carico in realtà era caduta in Italia, va detto anche questo, ed è la ragione per cui il Tribunale del Riesame di Bologna aveva stabilito che fossero restituiti a Youssef sia il cellulare che il computer sequestrati a casa della mamma appunto nel bolognese. In realtà però non erano caduti i sospetti, tant'è vero che tutte le volte che lui è tornato in Italia è stato sempre pedinato dalla Digos, quindi in Italia diciamo le forze dell'ordine hanno fatto il loro dovere fino in fondo, anche segnalandolo appunto all'antiterrorismo inglese, che invece diciamo ha trascurato anche questa segnalazione, così come aveva trascurato le segnalazioni che già c'erano state per un altro dei tre attentatori del London Bridge, che addirittura era stato denunciato dai vicini di casa e addirittura era talmente spavaldo nella sua professione di radicalizzazione da apparire in un video di Channel 4 mentre srotolava la bandiera nera del califfato sul prato di Regent's Park. Su questo direi che il procuratore di Bologna Giuseppe Amato ci ha sintetizzato quello che è appunto la pista italiana del terzo attentatore di Londra. L'hai intervistato tu, no Raffaella? Sentiamo. Sì. Sì. Una persona che andava con lo zainetto in Turchia ha suscitato qualche elemento di sospetto, anche perché lui in quel momento all'operatore che lo controllò disse, poi si corresse, che voleva andare a fare il terrorista. Gli fu sequestrato l'apparecchio, però poi non c'erano, secondo il Tribunale degli Esami, i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato e ne ordinò la restituzione, quindi non si è potuto esaminare integralmente il contenuto di questo apparecchio informatico. Fu segnalato a Londra per come possibile sospetto, in quei pochissimi giorni, in cui questo nell'arco di un anno e mezzo è tornato in Italia, è stato sempre seguito e monitorato dalla Digos di Bologna. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, ma non c'erano gli elementi di prova che lui fosse un terrorista. Era un soggetto sospettato per alcune modalità comportamentali. Era tornato in Italia dopo l'episodio del fermo. Sì, 10 giorni in un anno e mezzo ed è stato sempre monitorato. Questo il procuratore di Bologna, no Raffaella, che ha intervistato a proposito di quanto è stato seguito in Italia, monitorato. Sì Roberta, e questo direi che pone anche una questione di un diverso approccio italiano e di altri paesi, come in questo caso la Gran Bretagna, che è uno degli elementi che adesso sta diventando anche di polemica politica in Gran Bretagna, dove tra poche ore si torna al voto, perché mentre appunto in Italia ci sono le inchieste da una parte, ma c'è anche un controllo molto forte da parte dell'antiterrorismo, per cui abbiamo visto in questi mesi come in alcuni casi siano bastate dichiarazioni di, su Facebook o sui social network inneggianti all'ISIS o forme di diciamo anche soltanto orali di appoggio al califfato per essere allontanati, per essere rispediti e quindi espulsi dall'Italia, in altri paesi che però hanno anche altri numeri di persone da tenere sotto controllo. Infatti. Ecco, tutto questo non avviene, però appunto Theresa May proprio ieri ha detto enough is enough, ormai è troppo, sufficiente, esatto. Insomma, ha detto beh, come ricordare Raffaele, appunto onore ai nostri servizi segreti, alle intelligence, forze dell'ordine, perché sicuramente lavorano con grande competenza, grandi capacità. È vero però che leggevo anche che in Gran Bretagna ce ne sono migliaia di sospetti jihadisti da tenere sotto controllo. I numeri sono inconfrontabili, assolutamente. È assolutamente vero che i numeri, le realtà, le situazioni non sono assolutamente paragonabili con quelle italiane, che l'Italia è più un paese di transito. Da questo punto di vista è anche interessante andare a vedere quello che oggi un'operazione di Palermo ha ricostruito, anche riaprendo, avrete fatto ascoltare probabilmente il servizio, anche riaprendo le polemiche sul discorso dei migranti, di una rotta tra Tunisia fino a Marsala, che viene considerata anche una rotta dove pare ci siano le prove della presenza anche di alcuni aspiranti jihadisti. Quindi l'Italia come paese più di transito, o in altri casi come paese utilizzato come base logistica, così era stato ad esempio da Anis Amri, l'attentatore di Berlino poi ucciso a Sesto San Giovanni. In Italia era passato anche Salah, uno degli attentatori del Bataclan di Parigi, diretto poi verso la Grecia e la Turchia. Quindi il ruolo dell'Italia in questo caso viene utilizzato appunto come ponte verso l'Europa. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao. E ricordo tra l'altro, appunto, come dicevo prima, che tra due giorni si vota per le elezioni parlamentari in Gran Bretagna, quindi potete immaginarvi anche insomma la tensione. La polizia ha rafforzato la sicurezza, i seggi elettorali, e anche la prima ministra May, come sentivate prima, ha chiesto insomma di una revisione dell'operato di polizia e servizi segreti, e soprattutto adesso massima allerta durante le elezioni. Bene, direi che possiamo momentaneamente lasciarci per una breve pausa di ricreazione. I vostri messaggi continuano. Fabio, a proposito del terrorismo e della notizia che vi raccontavo poco fa delle milizie curde che sono entrate, sostenute dagli Stati Uniti, a Raqqa, capitale dell'ISIS in Siria, dice: questa sì che è una notizia, si spiega in parte la recrudescenza di nuovi attentati, sono messi alle strette. Questa in effetti, Fabio, è la spiegazione che danno tanti analisti, che più si colpiscono le loro roccaforti in Iraq, in Siria, più poi reagiscono, ma dicono alcuni analisti come fossero degli ultimi colpi di coda, insomma, alla disperazione. Questo in parte sarà vero, però è stato detto anche che sarà, diciamo, una guerra piuttosto lunga. 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure WhatsApp, anche pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete tra l'altro aderire senza indugio. Ci sono vari messaggi anche su Totorina e sulla legge elettorale. Raffaele, a proposito di Totorina, dice: ma se deve morire lo tengano in un ospedale in assetto di massima sorveglianza fino alla fine, stop, ma non a casa, libero quello no. Carcere a vita significa che ci rimani finché muori, anche perché rimane pericoloso e poi crea un precedente, e poi per rispetto per le vittime. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi. Lo sa bene Beatrice, l'ascoltatrice, che ringrazio. E poi i vostri messaggi, vi ricordo, man mano adesso seguiamo il filo delle notizie. Abbiamo parlato ampiamente di quello che è successo a Parigi, degli aggiornamenti per quanto riguarda le indagini di Londra, e adesso ci spostiamo invece su questioni più italiane, a proposito di Totorina e della sentenza della Cassazione di ieri, che sta creando molta polemica. I vostri messaggi, vi dicevo, sempre sulla pagina Facebook Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Per esempio, scrive Simone: sono contrario all'ergastolo e credo che ognuno debba morire in modo dignitoso, anche i semplici malati terminali. Questi ultimi però sono trascurati dalla legge. Poi Giuseppe a questo proposito scrive: io non mi scandalizzo, ma mi faccio una domanda. Perché DJ Fabo, come tanti, è dovuto andare all'estero a fare una morte dignitosa? È un criminale come Totorina, dovrebbe avere il diritto di farla in Italia? Sono due questioni un po' diverse, ma capisco che Giuseppe le può anche paragonare. Poi Stefano dice: anche le 200 persone che ha ucciso Totorina avevano il diritto di morire a casa loro. E poi molti altri messaggi, perché tra poco parleremo per l'appunto di questo, ma prima so che qualcuno non riesce a accendere puntualmente le 21. Molto velocemente vi ricordo i fatti principali di oggi. A Perigia, aggressione contro due poliziotti vicino alla cattedrale di Notre Dame. L'uomo di origine algerina, armato di coltelli, ha urlato sono dell'ISIS, è stato poi ferito dai poliziotti. L'attacco terroristico a Londra, gli sviluppi sono che veniva dall'Italia il terzo killer del London Bridge, un italo-marocchino che era stato fermato a Bologna nel 2016. E poi la legge elettorale alla Camera, oggi in un'aula semideserta c'erano 15 deputati per la discussione generale, e la bordata dell'ex presidente Napolitano che dice: un patto extracostituzionale di quattro leader che pensano solo alle loro convenienze. La possibile scarcerazione di Totorina, che sta creando polemiche di cui parleremo tra pochissimo. E poi Siria, milizie curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti sono entrate a Raqqa, per roccaforte dell'ISIS, per riconquistare la città. E poi a Londra è morto Khashoggi, è stato il più ricco del mondo, il miliardario saudita aveva 82 anni. Quindi allora, a proposito della polemica sulla possibile scarcerazione del sanguinario capo di Cosa Nostra Totò Riina, condannato per le bombe negli anni del terrore, degli attentati mafiosi, per la strage di Capaci, di Via D'Amelio, quindi per la morte di Falcone, di Borsellino, ma anche di Dalla Chiesa, ha 86 anni, è in carcere da diversi anni, allettato, malato di tumore. Lunedì è stata resa pubblica una sentenza della prima sezione penale della Cassazione sulle condizioni di detenzione del capo dei capi. Il suo avvocato, che tra poco sentiremo, è stato poco fa qui a Radio 24, ha presentato un'istanza al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, Riina è detenuto a Parma, in cui si chiede la sospensione della pena o almeno i domiciliari, viste le sue condizioni di salute. La Cassazione, i giudici bolognesi hanno risposto di no a questa richiesta dell'avvocato, però la Cassazione ha annullato questa decisione rinviandola ai giudici bolognesi per difetto di motivazione, cioè vuol dire che la devono scrivere meglio, la devono argomentare di più. Vi farei sentire, l'avete sentito all'inizio, il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore Borsellino, a Sky TG24 come ha reagito a questa eventualità. Se queste notizie corrispondessero alla verità, se qualcuno veramente avesse intenzione di, devo dirlo purtroppo, di pagare delle cambiali e far uscire Riina dal carcere, allora questa sarebbe la seconda volta che uccidono Paolo Borsellino. Questo quindi Salvatore Borsellino, secondo, insomma, relativamente a questa possibilità. E sentiamo invece poco fa qui a Radio 24 che cosa ha detto l'avvocato di Riina Cianferoni. C'è dietro una roba che poi dirò ovviamente nelle dovute sedi, che dirai, vabbè, in questo caso la difesa li ha messi in scacco. Poi ovviamente ci danno torto perché loro hanno il potere, io ho solo la dialettica, però almeno di far vedere che hanno torto ma loro. Ma loro hanno il potere chi? Lo Stato, chi? Amico mio, però loro hanno il potere, ci sono 14... No, noi, loro li chiamiamo loro. Sì, cioè, inquirenti piuttosto che forze dell'ordine. Quindi, quando lei dice, però, avvocato, scusi, loro hanno il potere, dice una frase molto forte, cioè loro hanno il potere e ci impediscono. Normale, la dice qualunque avvocato, cioè, voglio dire, noi non abbiamo potere per fortuna. Io posso provare a convincerla, ma poi se lei è il giudice decide lei, perché lei ha il potere, io non ce l'ho, io sono per la libertà. Ma la famiglia lo aspetta, la famiglia lo aspetta a Corleone? Assolutamente penso di no, questo penso proprio di no. Cioè lui non tornerà mai a Corleone, a morire. Non credo. Ne voglio parlare con Fabio Roia, che è magistrato, giudice e presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. Dottor Roia, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, diciamo, la maggior parte delle reazioni sono state contro questa eventualità, per esempio anche l'associazione dei familiari dei georgofili, il presidente Paolo Bolognesi ha detto: attendiamo che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna respinga la vergognosa richiesta e garantisca alle vittime la dignità della giustizia, mentre una voce un po' fuori dal coro, per esempio Massimo Coco, che è figlio del procuratore capo del Tribunale di Genova che è stato ucciso 41 anni fa a Genova con due uomini della sua scorta dalle Brigate Rosse, che dice: se ci sono delle norme che lo permettono, è giusto che anche il capo di Cosa Nostra, Rina, gravemente malato, possa essere scarcerato. Il diritto è superiore alla volontà del singolo e vale anche per i criminali. Lei cosa ne pensa di tutta questa storia? Ma innanzitutto la Cassazione non è che ha detto Totò Riina deve morire a casa sua. La Cassazione ha riaffermato dei principi dicendo al Tribunale di Sorveglianza di Bologna di valutare alcuni aspetti che sono fondamentali nel nostro ordinamento. Il primo, che diciamo appartiene al diritto naturale, che cioè il trattamento carcerario non può mai essere inumano nei confronti di nessuno. Ma fatta questa premessa, ha anche detto: dovete valutare innanzitutto le condizioni di salute, la possibilità che questa persona sia curata in carcere e soprattutto il fatto, dovete dire, dovete scrivere, se è un soggetto ancora socialmente pericoloso in relazione a tutti questi parametri. Quindi sostanzialmente la Corte di Cassazione ha detto: dovete valutare in maniera ponderata tutti questi principi che sono assolutamente fra loro compatibili. Si tratta di trovare un giusto equilibrio, anche se mi rendo conto che le reazioni da parte di tutte le vittime, i familiari delle vittime per gli ergastoli per cui è stato condannato Totò Riina, non hanno una ragione, ma ne hanno mille da vendere. C'è però un apparente conflitto con un diritto che, ripeto, non appartiene. La Corte di Cassazione fa riferimento alla Carta Costituzionale, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Io mi spingo oltre, che fa parte, direi, del diritto naturale. Per cui alla fine il trattamento carcerario non può mai essere, come dire, una sentenza di morte. Ci deve essere l'affermazione di un principio di dignità, di umanità nei confronti di chiunque. Questa è la vera forza dello Stato di diritto. Quindi lei, dottor Roia, dice: esiste questo, siamo uno Stato di diritto, esistono queste leggi, se si ritiene che sia giusto portare ai domiciliari, far morire a casa in modo più dignitoso Totò Riina, è giusto così? Sì, a determinate condizioni, che però in concreto io ovviamente non conosco poi gli atti della vicenda, mi sembrano difficilmente realizzabili, perché bisognerebbe stabilire che non c'è la possibilità di dare cure uguali in nessun'altra struttura. Noi pensiamo al carcere, ma anche l'ospedale potrebbe essere una struttura adeguata per far sì che una persona aspetti la propria fine, ammesso che questa sia poi irreversibile e prossima. Quindi altra condizione che deve essere valutata e sottolineata. E poi la totale assenza di pericolosità sociale. Oggi il procuratore Roberti, basandosi credo su fatti concreti, ha detto che comunque anche recentemente c'era la possibilità da parte di questo personaggio, che appartiene, credo debba essere iscritto come una delle figure peggiori della nostra storia purtroppo criminale italiana, la possibilità di comandare, di dare gli ordini anche in regime intramurario. Quindi questi sono, come dire, dei paletti difficilmente superabili, credo, nel merito della vicenda. È importante però, secondo me, ma questo vale per tutti, ripeto, senza richiamare la pietas cristiana o non cristiana anche per i non credenti, in maniera molto laica, ogni persona deve avere, come dire, il diritto che oltre un certo limite non si può andare dal punto di vista dell'afflizione. Dottor Roia, però appunto lei dice ci sono dei paletti che saranno difficilmente superabili, però due cose si potrebbero dire. Uno, che ci sono dei precedenti noti, come il caso di Provenzano, che stava anche peggio, no? Anche lui, boss di boss, Provenzano stava peggio ancora di Riina, però in carcere è rimasto. E poi come anche, diciamo così, anche se il verbo forse non è dei più adatti, come soddisfare anche il bisogno e la necessità, il diritto di giustizia anche delle famiglie delle vittime, no? In caso fosse mai possibile. No, certo, ma io difatti dicevo che difficilmente poi credo che Totò Riina uscirà dal carcere, ma non per, come diceva il suo avvocato, per un esercizio di un potere da parte dei giudici. Queste sono decisioni molto sofferte. 17 ergastoli, tra l'altro 200 persone morte, no, a suo carico. Io credo che difficilmente uscirà dal carcere, ma questa, come dire, è una previsione un po' pressapochistica e quindi non sera da parte di un magistrato, perché bisogna conoscere le carte, perché ripeto, i paletti da superare sono troppi e sono troppi alti. Il precedente che citava lei faceva riferimento ad un caso sovrapponibile, soprattutto, se un capo mafia è ancora un capo mafia, non c'è mai stato un percorso di revisione critica ed è in grado ancora, come dire, di organizzare attraverso degli sguardi, delle intenzioni, questo evidenzia una pericolosità sociale che certamente porterà la persona a rimanere in carcere, ripeto. Quindi si è dato giustamente enfasi ad una sentenza della Cassazione che però ha evidenziato quelli che sono i principi di diritto del nostro Stato, che riguarda non solo noi, riguarda l'Europa, riguarda la carta nostra fondante, ripeto, riguarda proprio i principi di diritto naturale comuni a tutti, cioè nessun trattamento, come dire, inumano può essere posto in essere da parte dello Stato nei confronti anche del peggior criminale. Grazie dottor Fabio Roia. Grazie. A lei, a voi, buona serata. Buona serata, buona continuazione. Allora adesso c'è la viabilità e poi passiamo subito a un altro tema. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie che io, Roberto Giordano, sempre con voi, vi ricordo molto brevemente. Abbiamo parlato dell'attacco a Parigi, questa aggressione di un uomo algerino di 40 anni contro due poliziotti vicino alla cattedrale di Notre Dame con un martello e dei coltelli, poi per fortuna è stato fermato, neutralizzato, ferito, è stato portato via. Poi l'attacco terroristico a Londra, gli aggiornamenti sono che veniva dall'Italia il terzo killer del London Bridge, un italo-marocchino, era stato fermato a Bologna nel 2016. La legge elettorale alla Camera, ne parliamo tra pochissimo. Poi la possibile scarcerazione di Totorina, abbiamo parlato ampiamente adesso con il magistrato del Tribunale di Milano Fabio Roia, e poi per quanto riguarda l'Alitalia parte l'esame delle proposte per la compagnia aerea, ce ne sono 32 in corsa. Adesso legge elettorale, quindi, che è approdata alla Camera per la discussione generale. Devo dire una Camera molto interessata, appassionata a questo argomento. Erano 15 deputati, qualcuno scrive 15 parlamentari alla Camera per la legge elettorale, gli altri 600 sono rimasti al mare per proseguire il ponte, semplicemente vergognoso. Vabbè, insomma, comunque questa legge elettorale è frutto dell'accordo tra le maggiori forze politiche, PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega. Grillo ha detto stiamo facendo una legge elettorale che non si capisce niente, poi ha detto in realtà più tardi ha detto è complicata ma costituzionale, andiamo avanti. Alfano, Angelino Alfano di Alternativa Popolare, alleato del governo PD, ha detto prima parlava del tradimento di Renzi nei suoi confronti, che era il suo alleato, che poi è andato quindi a concordare con altri la legge elettorale, poi ha detto arriviamo anche noi al 5% che sarebbe la soglia di sbarramento, e ora dice è incostituzionale. Ma la bordata più pesante l'ha tirata l'ex presidente Napolitano, che ha detto è paradossale sale il voto anticipato, vedremo i risultati di questa grande intesa di quattro leader di partito che agiscono solo calcolando le proprie convenienze. Vogliamo sentirlo brevemente? In tutti i paesi democratici europei si vota alla scadenza naturale delle legislature. Fare diversamente significa dare il massimo contributo negativo al consolidamento della credibilità politico-istituzionale del Paese. Ed è semplicemente abnorme, mi sia consentito, abnorme, che invece il giuoco e il patto extracostituzionale sulla data del voto sia quasi diventato un corollario dell'accordo tra partiti sulla nuova legge elettorale. Renzi però ha detto nessuno ha fretta di andare alle elezioni. Emilia Patta del Sole 24 Ore, cara Emilia. Buonasera. Insomma, diciamo, Napolitano politicamente non ha più un grande peso, no? non conta più, però non era grande sostenitore di Renzi e qui dice invece è un patto tra quattro leader per le loro convenienze. Sì, insomma, comunque Napolitano ormai è presidente emerito, appunto, ma le sue parole pesano ancora nel PD e nel centro-sinistra. Quindi insomma ha voluto essere voluto dare proprio un'indicazione contro il segretario del partito del PD Matteo Renzi, con il quale il rapporto è stato buono fino a un certo punto, poi Napolitano già nell'ultima fase della campagna elettorale per il referendum aveva criticato la troppa personalizzazione di Renzi del referendum, forse presagendo una sconfitta, insomma. Quindi si erano allontanati da qualche mese, però certo questa è una bordata molto forte. Che non è solo contro Renzi, secondo insomma le voci di corridoio a Montecitorio tra i democratici, in realtà è anche diretta allo stesso Quirinale, che secondo Napolitano non starebbe osteggiando il voto anticipato, questo progetto. Infatti i segnali che arrivano dal Colle sono in un certo senso di presa d'atto, cioè quello che fa trapelare il presidente Mattarella, e se i tre, quattro più grandi partiti vengono a me a dire che la legge del 62 è finita, io non posso che prenderne atto. Ecco, non sarà lui, dicono i suoi collaboratori, a fare un governo del presidente solo per fare la legge di stabilità. Piuttosto, dice, se proprio bisogna andare a votare, allora si faccia il prima possibile, perché c'è sempre il rischio dell'esercizio provvisorio se non si approva la legge di bilancio il 31 dicembre. Quindi se si vota a settembre questo rischio è un pochino più lontano che se si vota a ottobre o a novembre. Sembra che almeno questo paletto lo abbia messo. Però certo lui, se vengono i 3-4 più grandi partiti del paese a dire che la legislatura è finita, toccherà sciogliere le Camere. Comunque il Presidente considera un buon traguardo l'approvazione di una legge elettorale condivisa. Non entra nel merito, però dice almeno è una legge elettorale condivisa che pone fine insomma un po' un vulnus democratico, perché negli ultimi 2 anni sono state bocciate 2 leggi della Consulta, no? Approvate dal Parlamento, quindi insomma già questo è un traguardo. Ecco, si spera che insomma per la prima settimana di luglio sia pronta questa legge elettorale. Poi avremo tempo di parlare nei prossimi giorni, perché inizia domani, andranno avanti le discussioni. Grazie Emilia Patta, adesso le 24 ore. Grazie a voi. Buon lavoro, ciao Emilia. Invece adesso saluto Roberta Pacifici, che è direttrice dell'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera dottoressa Pacifici. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Parliamo del rapporto dell'Agenzia Europea delle Droghe, secondo la quale il numero dei morti per overdose di droga in Europa è aumentato per il terzo anno di fila. I decessi sono soprattutto per eroina e altri oppioidi. In Italia per fortuna il numero cala, anche se l'Italia è il secondo in Europa per l'uso di cannabis e quarto per gli oppioidi ad alto rischio, ottavo per la cocaina. Sì. Che giudizio dà di questo rapporto e soprattutto dell'Italia? Beh, io direi che un dato positivo è senz'altro il numero di overdosi, che è da anni ormai in calo in Italia. Questo è un indice di interventi sanitari, una buona prassi clinica sul tossicodipendente, soprattutto dipendente da oppiacei, e anche da una buona rete di disponibilità degli antidoti che vengono utilizzati nel caso di overdose come il naloxone, che sono facilmente reperibili, quindi una buona rete di distribuzione. Questo protegge ovviamente dai casi di overdose. Questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, anzi tutt'altro, perché anche in Italia negli ultimi anni abbiamo una recrudescenza del consumo di eroina, e soprattutto nelle fasce più giovani, anche se la via di somministrazione utilizzata non è più quella iniettiva, però rimane una sostanza estremamente pericolosa, soprattutto per i casi di overdose. Dottoressa Pacifici, proprio in sintesi, ci dice quali sono le nuove droghe anche in Italia, no? Hanno ampio spazio. Un fatto molto preoccupante è che quest'anno abbiamo avuto anche in Italia un decesso da nuove sostanze psicoattive, come catinoni sintetici, cannabinoidi sintetici e oppiacei sintetici. Comunque insomma il consumo è sempre alto anche nel nostro paese, anche se c'è meno rischio di overdose, perché diceva lei calano i morti e anche la possibilità di usare degli antidoti. Certamente è molto, la situazione è comunque dal punto di vista sanitario molto preoccupante, perché abbiamo l'introduzione di queste nuove sostanze psicoattive che stanno appunto anche producendo gravi casi di intossicazione. Abbiamo avuto anche un decesso in Italia nell'ultimo anno, e sono sostanze per le quali non sappiamo gli effetti sulla salute, e i giovani soprattutto che le utilizzano non hanno idea di che cosa stanno utilizzando, e quindi anche la percezione del pericolo è molto bassa. Famiglie e scuole insomma devono fare il loro lavoro in questo senso, in senso preventivo. Dottoressa Roberta Pacifici, grazie. Alla voi, buonasera. E buona serata. A questo punto ci dobbiamo proprio lasciare, poi sapete che vi riaggiorno brevemente alle 22 sulle notizie più importanti. E sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice Enzo: la legge elettorale mi ricorda tanto la tela di Penelope. In effetti, diciamo, è un buon paragone. A tra poco.